Di notte te mi guai. Di notte te mi guai, nei poets a frotte te mi guai, scendono dalle case popolari, dai sobborghi in zona stadio. Di notte te mi guai, me ne so mangiare gran cereale, ad ascoltare radio DJ in cucina. Mi viene voglia di assaggiare detersivi. Folle, desir, dire sì. Di notte, te mi guai, mi comporto molto bene. Con la punta del mio pisello ballo attorno al mio tavolo lingo. Di notte mi sento meglio, soprattutto dopo una certa ora. Non ho più nuvole in gola e sento i globuli tornare. Disco ball, la notte mixata. Di notte, frammenti sintetici, suoni inusitati illuminano tutto. Sono peyote in audio solution. Gira la mia stanza, ho voglia di quella crema di yogurt alle more. Ora che gli abbertollè reagiscono i pusher, il set si scalda e anche loro se la giocano a colpi di tacchi. Sull'asfalto riaprono i phone center, si balla anche chiamando Ngana. Che storia, il riflesso del quartiere. Tutti fuori a tenere il ritmo e a loopare tutto questo sound. Disco ball, vestiti, strafighi all'africana. Tutti quanti, puttane, trans, squali e delfini. Tutti quanti, te ne vai, felici.